GR24, il sole 24 ore. Berlusconi ancora in TV, Monti ha ragione di dire che sale in politica perché aveva un rango inferiore. Anche il procuratore Grasso chiede l'aspettativa per motivi elettorali. Confindustria, con la crisi a sud, persi 24 miliardi di PIL e 330 mila posti di lavoro. Smentisce di voler lasciare il sacerdozio il prete di Lerici, autore del volantino contro le donne. Buona giornata da Adriana Fracchi e dalla redazione. Ripartiamo dalla pagina politica. Nuova intervista in TV questa mattina per Silvio Berlusconi e nuovo attacco a Monti. Sciolta la riserva la sera di Natale, con pochi giorni a disposizione, Mario Monti è ora al lavoro per affrontare al meglio la sfida delle urne. La sua idea sarebbe quella di formare una lista unica con il suo nome, una soluzione che appare quasi obbligata al Senato per superare la soglia di sbarramento. L'alternativa è quella di una serie di liste federate, che darebbe invece più spazio agli alleati nella scelta delle candidature. Tutto dovrà essere comunque definito entro la metà di gennaio. Tra oggi e domani il professore sentirà e vedrà i ministri del suo governo pronti a seguirlo nell'impresa e anche i leader delle forze di centro che sono i suoi principali sostenitori. L'annuncio del suo impegno diretto è stato accolto con freddezza dal Partito Democratico, alle prese in questi giorni con le primarie per la scelta dei suoi parlamentari. Un nuovo duro attacco al premier arriva invece da Berlusconi, ospite di Uno Mattina. Oggi il Cavaliere ha commentato così la salita in politica annunciata da Monti. Lui dice sale perché ha ragione, aveva un rango inferiore a quello di Presidente del Consiglio. Io ho detto sceso in campo perché avevo un rango superiore e quindi è giusto, mi sembra che questo sia il linguaggio. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Fine d'anno non facile per il Partito Democratico. Le primarie di San Silvestro sono un appuntamento necessario per scegliere i candidati, ma anche per rafforzare l'immagine pubblica del partito di Bersani. Ed esse si intrecciano con il tema politico destinato a dominare le prossime settimane, il confronto con la lista Monti, che ancora non esiste e tuttavia costituisce già il tema centrale della campagna elettorale. Insomma, un centro-sinistra e un centro-montiano che dopo le elezioni dovranno collaborare insieme, ma che oggi sono competitori, fortemente competitori. Un'agenda Monti che è un polo di attrazione per una serie di personaggi che appartengono all'ala moderata del PD, un cuneo nella linea di Bersani a cui si chiede di scegliere fra le posizioni di Vendola o Fassina, che del segretario è uno stretto collaboratore, e quelle di Piero Ichino, che dal PD sta uscendo proprio per andare con Monti. Questi sono i punti in discussione oggi, in un quadro ancora molto confuso, ma c'è una sfida in atto che coinvolge il versante più europeista del PD e non c'è un vincitore sicuro. E notizia di poco fa, il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di essere messo in aspettativa per motivi elettorali, come è già accaduto per l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. L'organo di autogoverno dovrebbe concederla senza intoppi, trattandosi di un diritto non limitato da alcuna norma esistente. E proprio poco fa è giunta la notizia che un plenum straordinario del CSM è stato fissato per lunedì 7 gennaio. Franco Fiorito torna libero su decisione del GIP del Tribunale di Roma. L'ex capogruppo del PDL alla Regione Lazio, accusato di peculato, è uscito dal carcere. La prima udienza del processo è già stata fissata. L'ex sindaco di Anagni avrebbe effettuato 193 bonifici per far confluire sui conti in Italia e all'estero 1.380.000 euro, parte dei 6 milioni movimentati nei 2 anni. La crisi morde soprattutto nel mezzogiorno. Tra il 2007 e il 2011 il prodotto interno lordo del Sud Italia è diminuito di quasi 24 miliardi di euro, scendendo del 6,8%. È quanto calcola Confindustria nel suo check-up mezzogiorno. Più di 16.000 imprese hanno chiuso, anche se sono aumentate le società di capitali. Il numero di occupati si è ridotto di circa 330.000 unità. E al Sud la quota di diplomati disoccupati è più che doppia rispetto a Nord Italia. Anna Marino ha sentito Alessandro Laterza, vicepresidente Presidente di Confindustria, con delega al mezzogiorno. L'impatto della crisi, che inizialmente è stato meno violento sul mezzogiorno, poi nel medio termine invece si è rivelato drammatico. Questo dipende semplicemente dal fatto che il tessuto produttivo è più fragile, le imprese sono più piccole, e quindi hanno, c'è una minore propensione sia all'innovazione che all'export, che pure complessivamente va bene, ma non in misura tale da compensare quello che è il problema dei problemi in tutta Italia e ancor più nel sud, cioè il crollo dei consumi interni. Quindi il punto è trovare un equilibrio, in particolar modo attivare quella spesa pubblica sana, non di natura non assistenziale, cioè per investimenti da un lato, e sbloccare il meccanismo dall'altro del patto di stabilità, che come è noto strangola le amministrazioni che non sono in grado di esprimere capacità di spesa. Nel 2011, a 4 anni dal diploma, è occupato il 45,7% dei diplomati, quindi meno della metà. Lo rivela l'Istat. A guardare meglio i dati, più elevati i livelli di disoccupazione superiori al 34% si registrano tra i liceali, mentre i più bassi si rilevano tra i diplomati tecnici, 22,4%, e quelli degli istituti professionali, 21,4%. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme. Nel 2013 per i rincari è in arrivo una stangata da 1.500 euro a famiglia. Dal mini ritocco del canone RAI al maxi aumento della tariffa rifiuti, dall'RC auto ai biglietti di treni e aerei, passando per pedaggi, bollette, bolli e servizi postali e bancari. È lunga la lista dei rincari che si profilano per l'anno in arrivo, considerando anche le ricadute dell'IMU, una stangata da quasi 1.500 euro a famiglia, secondo Adusbef e Federconsumatori, che parlano di aumenti insostenibili. Un vero e proprio balzo, stimano le associazioni dei consumatori, sarà quello della tariffa rifiuti, che da aprile aumenterà del 25%, 64 euro in più a famiglia. Per l'aumento del 5% dei prezzi degli alimentari si spenderanno 299 euro in più, altri 61 per l'analogo incremento dell'assicurazione auto, mentre le tariffe professionali e artigianali ne aggiungeranno altri 114. Il 2013 sarà drammatico, ci dice Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Un anno drammatico perché segue quello addirittura iperdrammatico del 2012, dove la stangata fu di 2.333 euro. Un 2013 così carico di aumenti, beh, francamente è una cosa che raggiunge le famiglie italiane già spossate nel loro potere d'acquisto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente americano Obama interrompe le vacanze alle UE alla ricerca di un accordo in extremis che eviti il fiscal cliff, il precipizio fiscale. Sono durate poco le vacanze del presidente Obama. Mancano appena 5 giorni, infatti, al fiscal cliff, il cosiddetto precipizio fiscale che farebbe ripiombare l'economia americana e non solo in una nuova recessione. E Obama nelle prossime ore tenterà di trovare un'intesa al last minute con l'opposizione repubblicana. Senatori e deputati sono stati già convocati a Capitol Hill. La posta in gioco è altissima. Il ministro del Tesoro, Tim Geithner, con una lettera ai leader di Camera e Senato, ha fatto sapere che il 31 dicembre il debito americano toccherà il limite di 16,4 trilioni. Prima di Natale, che i media hanno ribattezzato Cliffmas, Obama aveva proposto di stralciare il tema delle tasse, ma i repubblicani hanno risposto picche. Intanto si fanno già i conti con le conseguenze pratiche del sempre più probabile fiscal cliff. Con il sistema dei tagli automatici alla spesa, oltre 2 milioni di disoccupati dovranno rinunciare al sussidio. Con i tagli ai trasporti ci saranno meno addetti alla sicurezza negli aeroporti americani. Perciò a spingere a favore dell'accordo si mobilita in queste ore perfino Starbucks, la catena di caffè più famosa d'America. I camerieri dei 120 punti vendita dell'area di Washington scriveranno Come Together sui bicchieri di cartone prima di consegnarli ai clienti. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Toyota risarcirà con la cifra record di oltre $1 miliardi gli automobilisti americani che hanno avuto problemi di sicurezza a causa dei tappetini difettosi. Ha accettato di pagare un risarcimento da record, ma le sue azioni hanno reagito in borsa con un balzo del 2,6%. Non è poi così strano. La Toyota pagherà circa $1,1 miliardi per mettere fine alla class action negli Stati Uniti relativa al problema delle improvvise accelerazioni non intenzionali che si trascinava da 4 anni. Ma è anche vero che dal punto di vista degli investitori il settlement rimuove un grande fattore di incertezza sui profitti. E poi in fondo la multa gliela paga il governo, nel senso che la nuova amministrazione del premier Shinzo Abe persegue esplicitamente una politica di indebolimento dello yen, che è già sceso ai minimi da 27 mesi sul dollaro. Se poi si considera che con un aumento delle vendite del 22% quest'anno a 9,7 milioni di veicoli, Toyota si riprende la corona di primo costruttore mondiale e prevede un'ulteriore espansione nel 2013, ecco che il mega risarcimento non fa paura. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il ministro dell'industria giapponese ha fatto sapere che il nuovo governo, insediatosi ieri sotto la guida di Shinzo Abe, è pronto a riattivare i reattori nucleari ritenuti sicuri. Nel frattempo ha promesso che le energie rinnovabili saranno utilizzate al massimo. Le centrali erano state fermate dopo il terremoto e lo tsunami dell'11 marzo 2011 che avevano causato gravi problemi alla centrale nucleare di Fukushima. Torniamo in Italia. Stamani è stata diffusa la notizia che avrebbe lasciato l'abito talare Don Piero Corsi, prete autore del volantino che in qualche modo giustificava il femminicidio. Poi la smentita: mi prenderò soltanto un periodo di riposo. Sentiamo Don Piero al microfono di Andrea Ferro. Io se sapevo che suscitasse tutto questo, chiaramente non l'avrei fatta. La mia intenzione non era certo quella di suscitare dei disanimi così grandi, però le affermazioni alla fine, se lei le lette, non mi sembra che fossero cose poi così fuori del mondo. Tenga presente che purtroppo ho ricevuto tante di quelle telefonate, non solo di solidarietà, ma anche di uomini disperati che si ritrovano totalmente in quella situazione lì. Credo quello è fatto. Purtroppo, guardi, io la mattinata sono stato disperato. Ha incontrato il vescovo? Certo. Cosa vi siete detti? Niente di particolare, abbiamo cercato di risolvere per l'altro, abbiamo cercato di risolvere al meglio la questione, ma non c'è stato nulla di... Ecco, il fatto che ieri si è diffusa la notizia che lei aveva chiesto scusa, è vero almeno questa? Non è vero, perché di cosa chiedo scusa? Per chiedere scusa ci vuole un'offesa, se voi mi portate l'offesa io posso anche chiedere scusa. Io non mi sembra di aver offeso nessuno, almeno non ne ho la consapevolezza, almeno. Dimostratemi dov'è, io sicuramente se ritengo di aver offeso sono pronto a chiedere scusa, ma io non so di cosa chiedere scusa in questo momento. Posso essere soltanto dispiaciuto di quello che è successo, ma chiedere scusa non vedo di che cosa. Sta rientrando lentamente l'emergenza rifiuti a Foggia, scoppiata a metà dicembre. Spunta l'ombra della mala dopo il fallimento della società municipalizzata Amica, che lascia 60 milioni di debiti. Intanto si è costituito parte civile il sindaco di Foggia, Gianni Mongelli, che oggi in un incontro alla Regione Puglia deciderà la prosecuzione dell'attività grazie all'AMIO di Bari. Sentiamo il primo cittadino di Foggia al microfono di Anna Marino. Mi dicono che purtroppo in questo momento non è disponibile l'audio del sindaco di Foggia, lo trasmetteremo appena possibile. Intanto andiamo avanti con le notizie. 7 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio a Paderno Dugnano alle porte di Milano. Si tratta di padre, madre e 5 figli. Colpa di un guasto alla caldaia del loro appartamento. 5 sono stati sottoposti a terapia in camera iperbarica. E ora parliamo del Capodanno che si avvicina ed è corsa a vietare i botti. Solo a partire dal 2008, proprio a causa dei botti in Italia, 7 persone sono morte, 1653 sono rimaste ferite e 580 hanno subito amputazioni permanenti. Un'assurdità a cui molti sindaci tentano di porre rimedio. Sono già 1011 comuni che hanno emesso ordinanze parziali o totali di divieto di botti a Capodanno. Tra questi, per il secondo anno consecutivo, c'è Ercolano. Da 25 a 500 euro le ammende per chi viola. A Bologna il sindaco Merola ha vietato lo scoppio di petardi dalla vigilia sino al 1 gennaio. Divieto totale anche a Valenza. A Bari il primo cittadino ha proibito la commercializzazione di botti tra il 7 dicembre e il 1 gennaio. A Grosseto il divieto di spari riguarda il centro e laddove non si proibisce perlomeno si raccomanda. A Milano è stato lanciato un appello ad evitare, come si legge, il malvezzo dei botti che spaventano anziani e bambini e terrorizzano talora a morte gli animali domestici. Medesimo invito a Bergamo, il cui assessore all'ecologia, invece che vietare, si appella al senso di responsabilità dei cittadini perché dimostrino rispetto a persone e animali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo con una notizia di musica. Umbria Jazz Winter comincia domani sera ad Orvieto da una novità, almeno per l'Italia. Infatti di scena sul palco del Teatro Mancinelli e sarà ospite fisso della rassegna tutti i giorni fino alla conclusione il 1 di gennaio. Gregory Porter è un cantante, songwriter, attore, produttore, l'ultima scoperta della vocalità jazz. Porter è candidato al Grammy con una canzone del suo secondo disco. È tutto per questo notiziario curato da Maria Piera Ceci. Un ringraziamento a regia Gianmarco Ferronato, un saluto e un augurio di buona giornata da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.